con Damiano Ricci di BIM Distribuzione che insieme a Movies Inspired distribuisce L'angelo del crimine di Luis Ortega al cinema da giovedì 30 maggio 2019. Damiano, ben trovato. Ben trovato a te e ben trovati a tutti gli ascoltatori. Cominciamo con brevi accenni di trama. Sì, guarda, allora, innanzitutto vorrei cominciare col dire che continua la nostra collaborazione con Movies Inspired. Siamo molto contenti di questa collaborazione che sta portando degli ottimi film di grandissima qualità che si aggiungono al nostro listino. L'ultimo di questi è appunto L'angelo del crimine, ovvero Elangel o Elanghella, forse meglio detto. È un film argentino, un film diretto da Luis Ortega ed è un film che parla di una storia vera criminale, una sorta di romanzo criminale argentino, potremmo definirlo. È la storia del serial killer più famoso d'Argentina negli anni Ottanta. Questo Carlos, il protagonista, diciamo, il personaggio realmente esistito, ovvero serial killer, è interpretato da un bravissimo attore argentino chiamato Lorenzo Ferro, veramente forse la grande sorpresa, insomma, di questo film, la cosa veramente più sorprendente. Questo ragazzo ha una faccia angelica, come suggerisce anche il titolo. È un ragazzo pulito, di bell'aspetto, un ragazzo borghese che a 17 anni, un po' per noia, un po' per una sorta di inquietudine malcelata da questo volto assolutamente diafano, direi, diventa uno spietato criminale, uno spietato serial killer. Quindi potremmo definirlo con una storia criminale, come ho già detto, ma anche una sorta di romanzo di formazione, quello che nel cinema viene detto coming of age. E, insomma, la storia di questo ragazzo è veramente una storia sorprendente che, insomma, io personalmente non conoscevo, penso che in Italia si conoscesse ben poco, ed è una storia che lambisce anche la situazione sociale dell'Argentina degli anni 80, di cui invece si sa molto di più, perché si comincia a intravedere in alcuni momenti del film quello che poi diventerà la spietata dittatura argentina che, come sappiamo, ha creato veramente numerosi danni, tragedie, diciamo, nel popolo argentino. Quindi è una storia a doppia faccia, come spesso nel cinema ci sono, una storia che presenta un personaggio, appunto, forte, un personaggio che tiene lo schermo dall'inizio alla fine, e allo stesso tempo, attorno a questo personaggio si vede e si intravede quella che è la situazione storico-sociale, il contesto storico-sociale attorno a cui il personaggio muove, diciamo, le proprie fila. Il film affronta l'inizio di questa sua, chiamiamola tra virgolette, carriera o ci dà anche alcuni elementi del prima? No, il film da questo punto di vista è veramente un biopic, ecco, quindi affronta il prima, il durante e anche le conseguenze, quindi è quella che molto spesso, insomma, nel cinema è la parabola di ascesa e discesa, cioè insomma, il momento, diciamo, così glorioso è anche il momento, quella che si chiama la hybris, è la nemesi, anche la nemesi finale del personaggio. Ovviamente gli esiti della vicenda non li sveliamo, ma la storia descrive questo personaggio dall'inizio alla fine e racconta proprio quella che spesso, insomma, spesso anche a sproposito viene chiamata e definita la banalità del male, ecco, come banalmente, per futili motivi si possa arrivare a commettere degli omicidi efferati. Quindi è una storia che scava all'interno della realtà sociale, come dicevo prima, ma scava anche all'interno della psicologia di questo personaggio, molto interessante e anche molto attuale. Ecco. Non, il contesto argentino degli anni 80 è un contesto interessante visivamente e socialmente, ma questo personaggio è un personaggio che potrebbe, e purtroppo in alcuni casi vediamo che esiste anche ai nostri giorni. Il serial killer è, ahi noi, uno degli oggetti del desiderio del cinema, nel senso che racconta tanto dell'animo umano. Cosa sappiamo di questo regista? È un regista a noi pressoché sconosciuto e anche in Argentina non è un regista tra i più affermati, è però un regista molto interessante, tanto che è stato inserito all'interno della scuderia, chiamiamola così, di Pedro Almodóvar, così come Pedro Almodóvar ci fece conoscere Damien Cifron con quel film che venne chiamato in Italia Storie pazzesche, presenta anche questo film, la formula infatti che abbiamo usato, che è stata usata anche, insomma, in altri paesi europei per presentare il film, è proprio Pedro Almodóvar presenta. Il film è stato prodotto anche dalla società di Pedro Almodóvar, quindi dal Deseo, la società di produzione di Pedro Almodóvar, ed è stato lui, diciamo, a fare, come in altri casi, da talent scout e a farci conoscere questo regista molto promettente. Quindi può essere un regista che può dire ancora molto in un momento in cui l'Argentina sta sfornando e sta tirando fuori numerosi registi interessanti. Uno di questi è Pablo Trapero, di cui probabilmente parleremo presto, visto che c'è un film in uscita sempre per la BIM, ma ne parleremo forse un'altra volta. Quali sono gli elementi, a tuo modo di vedere, che funzionano di questo film? Allora, tutto il film secondo me si basa su un'attrazione e repulsione, su un contrasto enorme fra la faccia angelica di questo personaggio e gli atti che il personaggio commette. Se il film funziona è proprio nella descrizione del paesaggio umano, chiamiamolo così, del suo volto. Vedendo anche già il trailer si capisce come questa persona, che veramente poteva essere l'uomo della porta accanto e il ragazzo d'oro, il figlio prediletto di qualsiasi genitore, abbia attraversato, sperimentato il suo lato più oscuro. Sì. E quindi è un contrasto enorme, questa pulsione tra il volto del personaggio e gli atti che commette, che tiene lo spettatore incollato allo schermo fino alla fine, oltre ovviamente a seguire le sue vicende e capire fin dove si spingerà. Ecco, questa è un'altra degli elementi che ti alimenta la curiosità dello spettatore fino alla fine. Dove è uscito finora? Beh, il film è uscito in numerosi paesi europei, noi siamo quasi l'ultimo di questi paesi, perché il film è stato, tra le altre cose, anche presentato al Festival di Cannes, che non a quest'ultimo Festival di Cannes, ma al precedente Festival di Cannes. Quindi è un film che da noi arriva un po' tardi rispetto ad altri paesi, dove ha avuto, insomma, ovunque ha avuto delle ottime performance, un'ottima resa anche al cinema. In quante sale sarà? Il film esce in 60 sale a partire da oggi. Ancora abbiamo la benedizione di una buona pioggia, vedete che sono gli unici che continuano a sperare in una pioggia perenne, oltre ai personaggi di Blade Runner, sono quelli che lavorano nelle distribuzioni cinematografiche, e quindi beneficiando di questo maltempo che continua a perdurare, ci aspettiamo che un buon risultato, insomma, perché il film è buono ovviamente, quindi sappiamo che il pubblico e gli spettatori sanno riconoscere i buoni film. Allora, ricordiamo il film L'angelo del crimine di Luis Ortega, al cinema da giovedì 30 maggio 2019 con BIM Distribuzione Movies Inspired. Un saluto e un ringraziamento a Damiano Ricci. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Credi, un abbraccio a te e a tutti gli spettatori.